Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta ai compari dei conti della Belva. Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino vi salutano e vi ringraziano. Renato Cifarelli ci raggiungerà a fine, fine trasmissione per telefono per la solita rubrica Non si può fare. Un buongiorno della liberazione a tutti. Come sempre io vi riepilogo a inizio di trasmissione i temi di cui parliamo, che trovate sul sito. Se andate sul sito Radio 24, programmi conti della Belva, trovate tutti i temi, gli ospiti, i documenti come sempre per approfondire i temi di cui parliamo oggi. Per intervenire 800 24 00 24, mi raccomando, le telefonate in diretta, siete anche più rilassati, tanto i negozi sono chiusi oggi, quindi bisogna pensare alla festa nazionale della liberazione, quindi potete chiamarci e mandarci al 349-238-6666 le vostre opinioni, nonché interloquire su Twitter con l'account e conti della Belva ovviamente. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ci sono quattro appuntamenti. Il primo è quello fisso, lo sapete, vi riepilogheremo i dati della settimana, quindi con Mario Seminerio a che punto è la crisi, e cerchiamo di capire un secondo, tra dati dell'occupazione che sono usciti, che fine fa il tesoretto del governo, la Grecia che si avvicina, e quindi cominciamo con quello. Poi un bel blocchetto sulle conseguenze della grande riforma che sta approvata questa settimana, la riforma epocale del divorzio express, il divorzio breve di 6 mesi per divorzio solo di tempo consensuale, 12 mesi che naturalmente non sarà mai applicato per quello giudiziale, vi spiegheremo perché. Però la nostra domanda è questa: lo capite bene che in un ordinamento con un matrimonio breve, quindi meno tutelato, meno importante per l'ordinamento, ne discenderà una bella modifica di tutti i diritti patrimoniali prima codificati? Cioè significa assegni divorziali di mantenimento meno cospicui e meno lunghi nell'incasso, e una bella modificona per le pensioni di reversibilità che in questo paese diamo a 4.800.000 individui per 40 miliardi. Allora, siete d'accordo? Siete contrari? Pensate che il divorzio breve invece deve far rimanere in piedi esattamente tutti i trattamenti economici tra coniugi e anche a spese dello Stato, visto che l'INPS ogni anno becca 90 miliardi dalla fiscalità generale? Secondo voi deve rimanere tutto com'era mentre il divorzio è breve? Ma vediamo, però telefonateci e fateci sapere se siete coniugi che lamentano che il divorziato non vi paga, oppure se vi lamentate di pagare troppo il vostro coniuge divorziato. È il momento giusto per telefonarci. Poi un altro blocchetto di questioni sul ritardo dell'Expo, e l'Expo è tra pochi giorni, ma vedremo a che punto è il ritardo dell'Expo, e anche per riflettere un pochino su questa polemica che c'è stata questa settimana sui famosi 8 giovani su 10 che rinunciavano a lavorare all'Expo. Approfondiremo per capire com'è davvero la faccenda, perché poi sia Manpower che Expo hanno dovuto fare marcia indietro sui numeri di quell'articolo del Corriere della Sera, e avremo con noi anche uno di coloro che ha rifiutato, ci spiegherà perché, un giovane iscritto al Politecnico di Milano, per capire se questa polemica bambocci sì bambocci no è fondata. E questa volta a me personalmente non pare, ma vedremo anche con i nostri ospiti se è fondata o meno. E infine, ma ve l'hanno detto nella banca in cui avete il conto corrente che entrano in vigore anche in Italia le norme dei salvataggi per le gambe all'aria alla cipriota, il cosiddetto bail-in, cioè che rischiate con i vostri correnti come obbligazioni? Mi sa che nella detto? Marca trevigiana qualcuno l'ha capito da solo. Cosa ne dici? però è un fatto tecnico, è un fatto tecnico, sarà, non vorrei che la gente equivocata, è un fatto tecnico, cioè vi portano via i soldi, ma per un mero fatto tecnico. Ho capito, ma comunque telefonateci, perché o ve l'hanno detto, o se non ve l'hanno detto è il caso che lo capiate, e anzi che protestiate, perché ve lo devono dire in banca che cosa davvero rischiate d'ora in poi. Ora un rapido giro tra i compari su che cosa li ha fatti arrabbiare questa settimana. Mario, ma arrabbiare come sempre, come mi capita da qualche tempo, non più di tanto, direi però... Stai sereno. Sto sereno, assolutamente sì, aspetto di essere sostituito anche se non so bene dove, ho già la campanella da agitare. Allora, queste previsioni di crescita del PIL italiano del primo trimestre, no? torneremo al dato positivo. Allora, visto Prometeia che sta intorno a 0,2, forse se tutto va bene, se ricordo bene, Istat che parla di 0,1. È un dibattito sui prefissi telefonici. No, esatto, quindi noi praticamente stiamo scaldando il motore, stando fermi, in quella che è una delle migliori congiunture da molti anni a questa parte, indotta da elementi esterni irripetibili, greggio, QI, eccetera. E tra l'altro vorrei dare un plauso pubblico al vice ministro dell'economia Enrico Morando, che diciamo in un intervento parlamentare ha detto: abbiamo una ripresa gracile che è frutto, diciamo, di circostanze determinanti assolutamente esterne. Per cui io vorrei veramente, visto che a volte mi capita di essere polemico, mi è capitato in passato di essere polemico con Morando, vorrei fare veramente un plauso per questa attestazione di onestà intellettuale. Forse si è confuso, però diciamo che l'effetto è stato l'effetto è stato quello di sicuramente di onestà intellettuale. E invece, Carlo Alberto? Una cosa seria mi ha fatto pensare. Sì, 25 aprile oggi, momento della memoria, ma un paese che fa ancora fatica a uscire dalle categorie dei genocidi, delle colpe storiche, del noi e del loro, degli altri, della solidarietà. Invece fa fatica a sposare il principio della legge e del diritto, che sono invece elementi di civiltà. Finché ci incolpiamo reciprocamente dicendo i vostri padri, i vostri nonni, il popolo che prende l'eredità delle colpe, signori, non è civiltà questa, è storia e deve essere storia. La memoria non è colpa, la memoria è ricerca e consapevolezza. Dopodiché, purtroppo o per fortuna, le nazioni si costruiscono sulle leggi, non sulle colpe ataviche ereditate. E questo vale sicuramente per il dibattito sull'immigrazione, che è stato un dibattito altamente ideologico e non organizzativo e giuridico, come invece ha da essere. Per cui cogliamo il 25 aprile, che è un settantesimo importante, il centenario della Prima Guerra Mondiale, per fare una revisione anche sul modo in cui guardiamo al passato. La cittadinanza è un diritto attuale, mentre la memoria è storia. Fammi dire questa cosa un po' intellettuale, ma che è importante tanto per celebrare il momento di oggi. Grazie, Oscar. Allora, io mi sono arrabbiato solo perché grazie a un ascoltatore ho scoperto questa sentenza della terza sezione del TAR del Lazio, che in realtà risale a febbraio, che mi ha letteralmente lasciato senza parole. Gli ascoltatori di 24 mi hanno già sentito parlare di questa sentenza, ma è capitato questa settimana una sentenza nella quale lo Stato si dà ragione da solo, e quindi nel riconoscere la ragione di una ricorrente, di una cittadina laziale, per che ha pieno diritto a un indennizzo sanitario al 2009 e al 2014, la sentenza del TAR dice: va bene, ti daremo l'indennizzo, ma non ti daremo la penalità di mora, perché lo Stato è in gravi difficoltà economiche e ha avuto tagli di spesa. Allora, l'idea è che naturalmente i contribuenti pagano e come quando sono ammessi alla rateazione fiscale, gli interessi e tutto quanto, e che lo Stato invece nega al contribuente il diritto di simmetrica legalità, la reciproca fiducia alla legalità, è uno Stato ladro. E questa sentenza mi ha lasciato senza parole, anche perché non ha avuto nessuna eco sui media italiani. Siamo così abituati allo Stato che si dà ragione da solo, asimmetrico, che una cosa gravissima come questa è considerata ordinaria amministrazione. E devo ringraziare molto l'ascoltatore che ce l'ha segnalato, perché lui effettivamente ha detto: ma sono io che non capisco o questa sentenza ha qualcosa che non va? Ha molto che non va, soprattutto perché l'informazione la fa passare così come è andata. Ci sentiamo tra un minuto. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta con i compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto, Mario e Oscar. E prima di esaminare i dati della settimana sulla crisi, una riflessioncina mia sul 25 aprile. Allora, il 25 aprile, sottoscrivo tutto quello che ha detto Carlo Alberto e la memoria, e proprio perché il paese giustamente è amareggiato, è incazzato per la vicenda dei droni americani che a gennaio, in un'azione della CIA, perché è la CIA che li muove e decide quando sparare, è stato in un'azione in Pakistan ucciso anche un cooperante italiano, lo porto proprio per questo dramma e tragedia che giustamente ci fa incazzare e che spero crei una crisi anche politica seria nei rapporti tra Casa Bianca e CIA, come si legge nei giornali americani stamattina. Ciò malgrado, noi non dobbiamo dimenticare che il 25 aprile ci siamo arrivati anche perché, e grazie, e il fatto di questa settimana e tutte le volte che ci fanno incazzare gli americani non ce lo deve far dimenticare, dobbiamo qualche cosa per la nostra liberazione, per la sconfitta del nazifascismo agli Stati Uniti. E quindi sentiamoci un secondo Whitney Houston, va. Per me la versione è un po' di invidia, anch'io ce l'ho. Ma noi, tipo Mina, Giorgia, non è che possono mettersi lì un po' a svisare su Novaro e Mameli, non ce la facciamo. È che Novaro è una prova dura, abbiamo dovuto un po' prenderlo in giro noi qua. Però, davvero, adesso non vuole essere una cosa polemica né disconoscere naturalmente chi diede la vita in Italia contro il fascismo. Però ricordiamoci che la seconda guerra mondiale ha consentito la libertà, grazie poi soprattutto agli Stati Uniti d'America e i britannici, con un certo signor Churchill che nel fine del 39-40 da soli non si piegarono, punto. E poi un ricordo anche di Whitney Houston, che secondo me avrebbe potuto, come Aretha Franklin, arrivare fino alla sua quarta età a cantare strepitosamente, e invece poi si è distrutta e rovinata. Ma andiamo ai fatti della settimana con Mario Seminerio, per capire un secondo, con qualche suo posta alla mano, come siamo messi. Innanzitutto, voi come li considerate i dati sull'occupazione che ci hanno dato l'altro ieri? Perché oggi, per esempio, c'è su Italia Oggi un commento che dice però diciamo la verità, i gufi a questo punto devono finire di rosicare, perché i dati sono strepitosi. Eccolo qua: il Jobs Act ha gufato tutti i gufi, sono stati 30.000 i contratti a tempo indeterminato, le cose vanno benissimo. Che dici, Mario? Chi è l'autore di questo articolo? Te lo dico subito. No, non per essere stronzo, diciamo, però giusto per capire. Portavoce del ministro Poletti, no? Chiedo. No, adesso ragazzi, bisogna rispettare i punti di vista diversi. No, perché... ma per carità, non è che voglio, diciamo... Perché? No, vabbè, se non c'è, non c'è problema. No, c'è. Sì, però posso dire che il dibattito su mese per mese è veramente... No, è asfittico, è ossessivo, è privo di basi metodologiche. Appunto. Cioè, per cui, vabbè, e quindi abbiamo... Allora... Se aumentano i contratti a tempo indeterminato, noi ne siamo lieti, punto. Mettetevelo bene in testa. Massimo Ferlini era tuttavia, va bene. Tuttavia, questo non indica che stiamo producendo occupazione aggiuntiva. Abbiamo un numero di persone che escono dal precariato estremo ed entrano in un contesto di tutele crescenti che, a essere cinici, alcuni definiscono precariato light, no? Non, anche qui non per essere perfido, no. A me fa piacere, diciamo, questi dati. L'occupazione netta non è in aumento, perché non è chiaro come possa aumentare l'occupazione netta quando il PIL cresce zero. Anche qui vorrei che faceste un piccolo sforzo, diciamo, anzi, di creatività. Speriamo che non aumenti, perché no, vuol dire che diminuisce la produttività. La produttività affonda. E poi vorrei segnalarvi una cosa che ho visto questa settimana sulla Spagna. Voi sapete che io non sono un fan della Spagna. Per me la Spagna non ha in atto alcun miracolo economico, ma ha in atto una ripresa, un rimbalzello, partendo dalla fossa delle Marianne, cioè quando hanno perso circa 4 milioni di impieghi dal picco di bolla immobiliare del 2007. Ebbene, la Spagna negli ultimi 12 mesi ha prodotto 504.000 nuovi occupati aggiuntivi netti, pari al 3% della forza lavoro complessiva. Per dare la misura, è come se l'Italia, negli ultimi 12 mesi, anziché produrre 95.000-100.000 occupati netti in più, ne avesse prodotti 650.000 in più. 8 volte tanto. Esatto, ma non solo. È inequivocabile che l'occupazione spagnola sta aumentando dal versante dei contratti a tempo indeterminato. Pur con la flessione di circa 115.000 unità dell'ultimo trimestre, che quindi indica appunto che non è tutt'oro quello che luce, però la Spagna ha una forte creazione di occupazione netta e una forte creazione di contratti a tempo indeterminato all'interno di quello che è il nuovo contratto di lavoro spagnolo, che tuttavia esiste da marzo 2012. Quindi o in Spagna esiste un Jobs Act in incognito, diciamo, che non si fa vedere, non si fa sentire, però lavora sotto sotto e sta facendo delle cose prestigiose, oppure, non so, noi siamo troppo anemici e suoniamo troppo la gran cassa. Ecco, soprattutto perché non leggiamo contemporaneamente il dato degli investimenti, che invece non cresce, e senza investimenti fissi la produttività non può aumentare in maniera strutturale. Sono rimbalzi tecnici mese per mese, quindi dobbiamo guardare i due dati in parallelo, no? E finché gli italiani non hanno voglia e non ci sono le condizioni per tornare a investire in impresa e in infrastrutture, signori, i rimbalzi dell'occupazione servono fondamentalmente a scopo di propaganda. Comunque, insomma, in sintesi, con Capitan Ganassa la crescita resta bassa. Questo è abbiamo uno spot praticamente. È più o meno quello che fino a questo momento si vede. Però abbiamo i tesoretti. Seconda riflessione della settimana. Esatto, perché diciamoci la verità: questa settimana addirittura la maggioranza ha accolto una cosa del governo per il quale hanno blindato questo famoso tesoretto in deficit. Ma è giusto, una volta che lo trovi il tesoretto devi conservarlo. Esatto, no? L'hai artificialmente che lo trovi esatto, è un progetto di è un OGM, no? Un organismo genetico. Praticamente modificato. Lo portano all'Expo sto tesoretto. Secondo me lo mettono in esposizione. Comunque, sotto l'albero della vita. Sta di fatto che quando sono arrivati gli avvisi più autorevoli dalla BCE, dall'ufficio parlamentare di bilancio, guardate che questa roba in deficit è meglio che non la facciate, subito tac, l'hanno messa in sicurezza. Hanno blindato, certo. Il tesoretto dove te lo metto, Oscar? Te lo metto lì, blindato, messo, è chiaro. So io dove no, ma è bellissima sta cosa, no? Hanno trovato nelle pieghe del bilancio, quindi nella parte per competenza, delle voci, che come noto il bilancio dello Stato ha numerose pieghe, diciamo, interstizi. Non fa tanti di plissé il bilancio dello Stato, e hanno praticamente congelato questa voce per competenza, che tra due settimane poi diventerà per cassa, quindi verrà erogato, perché sapremo intorno alla metà di maggio, certo, giusto in tempo per le elezioni amministrative. E poi diventerà per fede, diciamo, direttamente. E poi, quando noi capiremo se abbiamo ripresa o meno, eccetera, eccetera, con il bilancio di assestamento, quindi in autunno, capiremo se abbiamo copertura, se no, capiremo scatta. Se non abbiamo la copertura, scatta. Questa è una clausola di salvaguardia che non esiste. Scatterà qualcos'altro. L'importante è scattare. Comunque questo è il paese del rumore statistico, del rumore propagandistico, praticamente siamo specializzati a buttarla in cacciara. Detto questo, il passaggio parlamentare questa settimana su questa risorsa che non c'è ed è creata tra due prestime diverse degli andamenti, ma comunque in deficit, è il passaggio parlamentare grazie al quale il Presidente del Consiglio si è precostituito il diritto di annunciare comunque già l'utilizzo prima delle regionali, perché politicamente questo significa, non ascoltando tutti coloro, noi siamo stati per primi, solo 24 ore, due giorni dopo, la Banca Centrale Europea, tutti che gli dicono ma che state a fare, il Corriere della Sera che ha scritto l'Unione Europea potrà probabilmente dire no alla reverse charge e sono un miliardo che salta di maggiori entrate entrate che il governo aveva ipotizzato, ve lo abbiamo spiegato, cambiando il regime del pagamento IVA e drenando risorse e liquidità alle imprese, e, eppure ciò malgrado il governo ha deciso questa cosa. Allora, terza riflessione della settimana. No, fammi fare una riflessione. Sì. Siamo proprio dei gufi, cioè gliele troviamo tutte. Ma no, che gliele tutte. Troviamo tutte. Siamo proprio il nostro gufi. Mestiere è un po' quello, per così dire. Terza riflessione, Oscar. La Grecia. Hai ragione, no. Perché qui giustamente tutti ci chiedono, ma diteci, fate trasmissioni tutti i giorni, l'allarme, la cosa, cioè. Allora, qui Varoufakis oramai sbertucciato da tutti i colleghi in Europa. Ma è un peccato, è un ragazzo simpatico. Io per esempio stamattina mi sono vestito da Varoufakis, no? Avete visto? Già come dire, la conciatura è più o meno con lo stesso stile. Poi Yanis, condividiamo le stesse moto, più o meno, lui c'ha un 1.300, io un 1.200. Ma tutto sommato Varoufakis serve per sollevare il dibattito. Senza Varoufakis la Grecia sarebbe un tema assolutamente tecnico-finanziario, mentre è un tema pop, se posso dire. Ma io non ho capito però, cioè c'è scienza e coscienza, secondo voi, nel governo greco nel mettere uno che... dicono tutti i suoi colleghi ormai, ci prende in giro, ogni volta che si va al punto svicola, si rifugia in libri per l'infanzia invece di darci una lista con dei numeri, lo fa apposta a Tsipras oppure non aveva preventivato che andava così e stiamo andando dritti sull'iceberg senza capirlo? Mario, vai avanti. No, io ripeto, io mi sono formato un convincimento, il governo greco è intimamente convinto che le condizioni di vita del paese, della popolazione, non potranno peggiorare ulteriormente anche in ipotesi di default. Bella illusione. Esatto, questo è secondo me un errore strategico che rischia di essere tragico per la popolazione. Quindi loro ritengono che la loro mano nei confronti dell'Unione Europea stia progressivamente rafforzandosi col passare del tempo e con l'avvicinarsi delle scadenze, che quindi alla fine riusciranno ad avere un finanziamento ponte. Questo è un errore drammatico, perché è vero che la Banca Centrale Europea sta allargando la Emergency Liquidity Assistance, la ELA, però la sta allargando in maniera molto frenata e soprattutto penso che la prossima settimana o quella successiva ci saranno gli ERCAT, cioè i tagli degli importi stanziabili per avere questi soldi. Esatto. A quel punto lì il governo greco, visto che i cittadini continuano a prelevare euro e si ritengono in casa perché sono terrorizzati dall'arrivo di una moneta nazionale, tac, controllo dei capitali. Controllo dei capitali in uscita, però dopodiché vediamo, perché se questi fanno effettivamente default, io dico una cosa, per me l'idea di una ristrutturazione del debito o di un allungamento delle scadenze o di un qualcosa era assolutamente condivisibile e io non ho mai fatto mistero di questo, certo. Perché credo che non sta scritto nell'Antico Testamento, non sta scritto nelle tavole della legge che i debiti, quando smettono di essere sostenibili, si debbano pagare comunque anche col sangue. Certo. Per cui la cancellazione del debito, la ristrutturazione del debito, il concetto del giubileo, se vogliamo metterla secondo temi più alti e nobili, è nell'ordine della storia dell'umanità. Però per come il governo greco, da quando è entrato in carica, ha gestito questa cosa, hanno veramente dissipato tutta la eventuale simpatia, esatto. La credibilità e la punto. Possibilità di creare un meccanismo funzionante per alleviare il dolore. Si stanno arrabbiando anche gli americani, che invece erano molto simpatici, giusto, non soltanto il credito, ma di credito finanziario, ma anche quello di fiducia, è importante tutelare. Colossale errore in Europa, che poi noi lasciamo perdere sul vertice straordinario sull'immigrazione, di che prova di lungimiranza, intelligenza e consapevolezza ha dato. Un minuto di pausa e torniamo. I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta ai compari dei conti della Belva. Carlo Alberto, Mario, Oscar Giannino. Viene la mezz'ora in cui, se siete coniugi arrabbiati per gli assegni pagate, o che ne so, perché è incassata una pensione di reversibilità, se siete rimaste vedove o vedovi troppo bassa, beh, è il momento di telefonare, perché la domanda che vi poniamo è proprio questa: è passata la riforma dopo decenni di lotta della politica in nome delle contrapposte frontiere, chi voleva difendere l'intangibilità della famiglia collegata agli anni necessari per divorziare, chi invece faceva notare che in Europa la media del tempo di separazione per il divorzio era o zero o al massimo 6 mesi, perché ci sono paesi in cui è zero, in Francia quando ci si è d'accordo si può divorziare immediatamente, in Gran Bretagna il giudice può decidere il divorzio immediato valutando se una separazione possa creare danni ulteriori ai coniugi o alla prole. In Danimarca lo si può fare online addirittura, senza neanche incontrare il partner, eccetera. Comunque la riforma dice 6 mesi per la consensuale e 12 mesi per la giudiziale. I 12 mesi scordateveli, perché naturalmente i processi durano oggi in media 36 mesi nel nostro paese, con punte fino a 4 anni, e il termine ordinatorio dei 12 mesi da quando comparite di fronte al giudice non sarà tale da far accelerare il giudizio. Quindi la giudiziale avrà una durata, la separazione giudiziale prima del divorzio, che resterà tra i 3 e i 4 anni. La domanda diventa se a questo punto ci sarà l'incentivo di molti a quel punto a fare la consensuale anche con coniugi deboli che non si tuteleranno, per così dire, sul reddito e il patrimonio. E vabbè, e questa è una prima faccenda da chiarire sulla riforma. Però la domanda di fondo è un'altra. Se per il nostro ordinamento il matrimonio diventa più debole, più breve, si può sciogliere prima e la gente lo saprà che è così, com'è possibile che i diritti patrimoniali di reddito, cioè sia quelli collegabili a quanto ammonta l'assegno di separazione e di divorzio, l'assegno divorzile, quanto dura il suo percepimento, sia quelli collegati alla pensione di reversibilità per la parte pubblica, e beh, anche quelli muteranno, devono mutare per certi versi. Tenete conto che le pensioni di reversibilità riguardano nel nostro paese nel 2014 4.800.000 individui che percepiscono trattamenti per 40 miliardi di euro. Ora, a oggi la pensione di, che si dice in gergo tecnico, ai superstiti, noi la diamo sia ai coniugi, se non ci sono i coniugi la diamo ai figli, se non ci sono i figli la diamo anche ai nipoti, se non ci sono questi la diamo ai genitori eventualmente superstiti. Già io su questo non sono d'accordo, perché non capisco i nipoti che cosa c'entrano, ma secondo il nostro ordinamento variano le percentuali, ma glielo diamo. Vi ricordo poi come funziona oggi la pensione dei superstiti in caso di divorzio, secondo il vecchio divorzio. Se Giannino e sua moglie divorziano, Giannino muore e la moglie divorziata incassa la pensione di reversibilità. Se Giannino e sua moglie divorziano e Giannino si risposa e Giannino muore, la moglie divorziata divide con la seconda moglie di Giannino la pensione di reversibilità. Lo sapevate? No, è così. Se Giannino e la moglie divorziano e Giannino muore a quel punto, avendo a quel punto la moglie divorziata incassata la pensione di reversibilità, se la moglie divorziata si risposa, cessa la pensione di reversibilità, ma addirittura una tantum di 2 anni. A oggi funziona così. Tutte cose che a me francamente lasciano molto molto perplesso. Quindi tu evita di morire, che queste cose no, non però succedono. Qui abbiamo un filone di spending review incredibile, dobbiamo esatto. Segnalarlo a Gutkel De Perotti, funziona diciamo. Così, a oggi funziona così. E tanto per essere chiari, nella pensione di superstiti non si fa un computo degli anni di attesa vita del percipiente e delle sue possibilità di rioccuparsi, il famoso caso della badante che sposa l'85enne e a cui daremo poi la pensione per 50 anni. Tutto questo di fronte a un matrimonio ridefinito dal divorzio, secondo me, dovrebbe portare a una revisione dei criteri. Però è un'opinione mia personale, l'ho scritta e sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti e poi che cosa ne pensano ovviamente Mario e Carlo Alberto. Allora, abbiamo con noi Domenico Fumagalli, che è presidente dell'associazione Papà Separati Onlus Lombardia. Buongiorno Fumagalli. Buongiorno Giannino, sono qua, buongiorno. E poi Cristiana Arditi di Castelvetere, che è avvocato cassazionista, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Buongiorno e grazie di essere con noi in questo 25 aprile, avvocato. Buongiorno a voi. Posso innanzitutto chiedere all'avvocato cosa pensa di questa affermazione nostra iniziale sulle conseguenze sull'assegno divorzile, i criteri per percepirlo e la percentuale rispetto al reddito del coniuge forte da una parte e dall'altra dei meccanismi di titolarità e di calcolo e di corresponsione delle pensioni superstiti di reversibilità. Lei che pensa come avvocato? È del tutto scisso dalla legge o è coerente alla riforma pensare che abbia un impatto diretto in queste cose? Allora, intanto voglio premettere che per me questa nuova legislazione del divorzio breve non ha apportato nessuna rivoluzione, semplicemente ha fatto sì che invece di 3 anni per poter giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio si può aspettare soltanto 1 anno. Come lei ha detto prima, scordatevi 1 anno, ma questo è un altro discorso. No, questa è la classica riforma all'italiana, perché di fronte al giudice resterà tutto com'era, 3-4 anni, vabbè comunque. Sì, diciamo che non è proprio così, perché anche ora si può chiedere, nonostante la pendenza di un giudizio per separazione, si può incardinare un nuovo procedimento per la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché il procedimento per separazione ha dei presupposti diversi da quello del procedimento di divorzio. Certo. Il procedimento per separazione prevede anche l'accertamento di eventuali responsabilità nella separazione, e parliamo di addebito. Il procedimento per divorzio invece cura, se vogliamo, soltanto gli aspetti patrimoniali. Esattamente. Conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, se mi è permesso, io trovo intempestive tutte le dichiarazioni fatte da più parti secondo le quali questa nuova legislazione sia uno scandalo o un attacco alla famiglia. Non è così, semplicemente ha ridotto i tempi. Sì. Naturalmente bisognerà vedere se finisce come in Spagna. In Spagna hanno imboccato una strada analoga nel 2005. La conclusione è stata che si è avuto un aumento percentuale delle separazioni non consensuali ma giudiziarie, che sono passate dal 35 al 40%. Io non so se in Italia, chiedo a lei, avremo lo stesso effetto, o se invece i termini molto più brevi di separazione, 6 mesi rispetto a quelli della giudiziale, non spingeranno molti a quel punto ad andare comunque alla consensuale, a rischio però che i coniugi più deboli vengano meno tutelati. Lei che pensa? Allora, io penso questo. Bisogna sempre guardare l'aspetto psicologico delle parti. Se le parti vogliono litigare, litigheranno sempre e comunque. Se le parti sono un po' più intelligenti e vanno a pensare in termini di soddisfazione e non solo di vittoria, questa legislazione non può che agevolare. D'altra parte vado a pensare che il termine più breve non solo non pregiudica nessun diritto, quindi assegno di mantenimento e assegno divorzile mantengono la loro natura giuridica, che è diversa tra loro, ma se vogliamo questa abbreviazione dei termini comporta un beneficio per quello che potrebbe essere il coniuge economicamente più debole, perché il coniuge economicamente più forte non può aggiustarsi il proprio patrimonio in vista del divorzio, perché in 3 anni il proprio patrimonio, per dimostrare che è minore, magari lo si può aggiustare, in un anno è più difficile. Quindi lei, se vogliamo la prende dal punto di vista, il minor tempo condiziona negativamente le possibili strategie elusive del coniuge forte e furbo, da questo diciamo punto di sì, nel senso che se si però vuole litigare comunque si litiga. Ma secondo lei non varia, quindi non deve variare né l'ammontare della separazione divorzile né il meccanismo e l'ammontare delle pensioni di reversibilità? Lei dice no, è una questione temporale, ma la sostanza no, varia come giustamente ha detto lei, a seconda del tempo di durata del matrimonio, che prima tuttora il tempo di durata del matrimonio è anche il tempo della separazione. Quindi l'opinione dell'avvocato è sì, ci saranno delle conseguenze. Adesso brevissimamente, perché gli do un minuto, ma poi riprendiamo con lui e con l'avvocato. Domenico Fumagalli, siccome il coniuge debole in Italia non è mica per definizione la donna da un bel po', ci sono 800.000 almeno mariti separati con prole che non ce la fanno a pagare l'assegno e che hanno problemi perché, non avendo l'affidamento della prole, hanno problemi nell'esercizio dei diritti elementari nei confronti dei figli. La sua opinione di fronte a questa riforma è, ve ne aspettate cose positive o negative? No, non ci aspettiamo che cambi nulla di fatto, come detto prima. Cioè, noi come associazione, noi quello che risulta da un punto di vista patrimoniale, se vogliamo parlare di soldi, che a noi risulta veramente difficile accettare che anche a seguito di separazioni consensuali, perché chiaramente noi come associazione consigliamo tutti i nostri associati o le persone che si rivolgono a noi di andare in consensuale, di fatto escono dalle aule di tribunali omologate da una sentenza o da un accordo di separazione persone che poi vanno a vivere sotto i ponti. questo un po' per dare anche il rovescio della medaglia di tutto il fatto patrimoniale. Da noi cioè, il fatto che il giudice comunque veda all'interno di un accordo di separazione che comunque le persone che si stanno separando non avranno poi, una volta uscite dal tribunale, le risorse per continuare a vivere dignitosamente nei loro figli, ci sembra un'assurdità. Una cosa veramente. E quindi non vi aspettate cose positive. Riprendiamo da qui, adesso facciamo una pausa di un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornate in diretta, 10.47, primi 21 secondi in questo 25 aprile. Stiamo parlando delle conseguenze della riforma del divorzio breve sugli assegni di separazione e divorzili e sulle pensioni di reversibilità. Ma non ho capito come la pensano in materia i compari. Caro Alberto, tu come la pensi? Che è giustamente un'occasione per rivedere tutta questa forma di welfare sotterraneo, per difendere veramente le prospettive dopo il divorzio e la separazione. Bisogna un po' ridiscutere su questo tema della tutela del coniuge relativamente debole. Io sono convinto che lo Stato debba fare il possibile per evitare la situazione dei padri che vivono sotto i ponti, ma non si può per fare questo trasferire risorse magari tipo opportunistico coniugi che invece hanno una lunga aspettativa di vita e che sono relativamente più deboli rispetto magari a un coniuge ricco, ma sono assolutamente più forti rispetto alla media della popolazione. Perché lo Stato deve farsi carico di mantenere dei privilegi? Primo. Secondo punto, la tutela veramente della famiglia passa attraverso partecipazione al lavoro e un mercato delle risorse domestiche, in particolare degli affitti, molto più liquido e molto più diciamo pratico. Noi stiamo irrigidendo ancora, tenendo rigida una situazione di tipo abitativo e professionale che in un certo senso costituisce un incentivo forte a mantenere famiglie forzosamente unite quando in realtà potrebbero avere la libertà di prendere decisioni diverse. Mari. Mi colpisce molto questi criteri di assegnazione della reversibilità, per cui diciamo, come dicevo prima a mo' di battuta, ci sono margini veramente per fare una revisione di spesa. E poi mi colpisce diciamo il fatto che noi abbiamo veramente una miriade di interventi assistenziali non universalistici, ma frammentati, segmentati e impropri, e che durano da parecchi decenni. Per cui servirebbe veramente un grandissimo riordino in chiave realmente universalistica. Il governo che avrà gli attributi per fare una cosa del genere entrerà nella storia. Dopodiché, quando leggiamo ma l'Italia è l'unica con la Grecia, l'Ungheria e Topolinia che non ha il reddito minimo, il reddito di cittadinanza, eccetera. Signori, imparate a fare di conto. Calcolate in quali rivoli finiscono le risorse di welfare di una torta che è sempre più stretta perché noi non cresciamo più, e forse riuscirete a capire perché, anziché sdegnarci del fatto che non abbiamo un ammortizzatore sociale universale, abbiamo una miriade di interventi particolaristici che sono l'essenza di questo paese e quello che porterà questo paese sugli scogli. Io a maggior ragione, completamente d'accordo con quello che dice Mario, oggi se avete tempo e voglia trovate a pagina 5 un'anticipazione sul Sole 24 Ore di un possibile intervento di spending review a cui sta studiando la coppia Gutgel-Perotti, quello sui famosi le agevolazioni fiscali, le fiscal expenditures, e sono tagli in arrivo, dice il titolo del Sole a pagina 5, per 52 agevolazioni fiscali, obiettivo recuperare 1,7 miliardi nel 2016, 2,4 nel 2017. Ora, vedere per credere, perché come è noto e dai tempi sono anni che questi interventi sulle agevolazioni fiscali sono annunciate, e come vedete le cifre sono molto ridotte, e sapete che si comincia con una cifra e si recupera poi molto meno. Tenete conto che invece quei 40 miliardi di pensioni di reversibilità, di cui io per primo testimonio che se andate a vedere le tabelle di concentrazione regionale capirete che è stata una forma impropria, come diceva Mario, di fare welfare aggiuntivo come con le pensioni di invalidità, ecco lì c'è molto da riflettere e molto, ma non da tagliare, si tratta di attribuzioni inique. Che senso ha dare per tutta una vita a un coniuge giovanissimo, vedovo di un coniuge anziano, un trattamento di reversibilità che prescinde, ripeto, dalla sua età e dalla sua occupabilità? Non ha senso in un paese come l'Italia, quando noi invece abbiamo le più basse detrazioni, per esempio per i figli, rispetto a tutti gli altri paesi europei. Ci vogliono criteri universalistici e che non dipendano da condizioni come quelle che si verificano, ripeto, quando ci sono contrasti di età così forti, che poi inducono i furbi e le furbe a sposarsi per questo, per essere chiari, no? In un paese che non ha risorse. Vedo che ci sono delle telefonate. Cherubino, che nome fantastico, ma temo che purtroppo non sia altrettanto fantastica la sua condizione. Cherubino da Firenze, prego, spiegaci. Buongiorno. Buongiorno. Io sono alla disperazione per una separazione, nessuno mi sta aiutando. Lo posso parlare? Sì, dica. Ascolti, ho una ditta di trasporti, non riesco più a rimetterla in moto perché il mio avvocato per la separazione mi sta rovinando. Spiego, delle psicologi, ho portato la mia ex da diverse psicologhe e l'ultima mi ha detto dopo 3 volte che Rubino non c'è più niente da fare, ci vuole l'avvocato, glielo do io un avvocato bravo, e sono stato da un avvocato di Firenze. Vado a parlare €400, 600 per scrivere una lettera, si incomincia la separazione, chiedo naturalmente quanto ci vuole per la separazione, da 3.000 a 3.500, il bambino viene affidato all'assistente sociale, lei, l'avvocato, siccome mi vuole aiutare, mi affitta una casa per pernottare col mio bambino che ho tenuto 9 mesi e ci sono stato solo 2 volte. E alla fine poi è stata 3 volte in tribunale, scusatemi, sentite bene, 3 volte in tribunale e niente, poi mi chiama nel suo ufficio e mi dice: guardi, i psicologi reclamano una €4.000 e quella che gli ho affiancato €2.000, quindi sono 6.000 euro. E all'improvviso ho pagato tutta la casa che mi aveva affittato perché mi voleva aiutare, €700 al mese. E 700 euro al mese, e mi dice: pagato le 3.500, pagato la casa, mi fa: Cherubino, questo è il suo conto, gli ho voluto bene, e mi fa: il piatto piange. Io intervengo subito, dico: lei per me avvocato non deve fare più nulla, da oggi ritorno a dormire in casa col mio bambino e vestendo dalle scale. Però questo mi pare di capire che è una storia di un pessimo rapporto con un avvocato, ho capito bene? Il bello è questo, mi dà il conto e mi dice: questo è il tuo conto, e io poi vado via di sabato, vado a prendere la raccomandata, €22.000. Si fermi un po' qua, sentiamo subito l'avvocato Cristina Ritri Castelvetere. Da questo racconto, ecco, che ovviamente possiamo prendere con tutta la tara, ma la sua prima impressione qual è, avvocato? Allora, la prima impressione è che se il signore non era soddisfatto dell'operato dell'avvocato, poteva con molta serenità revocare il mandato e farsi assistere da qualcuno che magari lo avrebbe soddisfatto meglio. Per quanto riguarda la parcella che è stata fatta, non posso entrare nel merito. No, me lo aspettavo, però che vi sono non solo delle tariffe, ma le psicologhe 6.000 euro, ma le tariffe psicologiche, cioè queste sedute come erano, a peso d'oro, che sedute erano? Questo poi dipende dalla psicologa, nel senso, ok, però ammettiamolo, possiamo dire a Cherubino che ci sono parecchie cose di quelle cifre che effettivamente non solo non dovrebbero farlo dormire, ma non tornano proprio. Sentiamo Giancarlo da Torino. Giancarlo, prego. Giannino, buongiorno. Buongiorno. Sono talmente d'accordo con le sue prefazioni sul discorso sul welfare pensionistico, sulle ex mogli e sui mariti, che la bacerei in fronte. No. Detto questo, quello che io vorrei capire, perché mi era stata detta una cosa un po' diversa anni fa dal mio legale, sì, nel momento in cui inizio matrimonio fino alla pronuncia del divorzio, quegli anni, che potrebbero essere ad esempio 5, chiaramente vanno a avere diritto alla pensione di reversibilità, sì, ma non a tutta, è proporzionata agli anni di, sì, effettivo matrimonio e separazione, perché altrimenti la cosa mi inquieta molto. Io sono rimasto sposato, cioè nozze, divorzio per 7 anni, ora la mia ex moglie, nel momento in cui dovesse avere la pensione di reversibilità, si troverebbe una cifra molto importante per 7 anni di matrimonio, che poi tra l'altro sono 4 di matrimonio e 3 di No, è in costanza di, è la durata del matrimonio, quindi prescinde da quello del divorzio, non c'è dubbio. Fino alla pronuncia. Però il problema è che è maturato il diritto rispetto agli anni di matrimonio, anche dopo il divorzio la cosa funziona come ho spiegato io. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta alle 11, 7 primi 40 secondi agli studi di Milano Radio 24 in questo 25 aprile di liberazione. Siamo tornati con i compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto, Mario e Oscar Giannino. Vi dirò che dell'intervistona Repubblica rilasciata ieri sul 25 aprile del Presidente della Repubblica Mattarella, della Repubblica rispetto a Repubblica Giornale, mi è molto piaciuta in particolare una frase nel quale il Presidente della Repubblica ha detto: i diritti delle persone preesistono a quelli dello Stato. Ecco, è una impostazione in teoria dovrebbe essere, per così dire, scontata, di un luogo comune quasi, ma è una considerazione rispetto alla legislazione italiana, all'ordinamento italiano ormai, che stride così tanto, che mi è piaciuto che il Presidente della Repubblica, che parla molto poco fino da che è stato eletto, abbia ritenuto di doverla sottolineare. Poi io mi auguro che qualche volta da quella massima faccia discendere delle conseguenze di fronte a qualche legge italiana che non ragiona così, però ci tenevo a dirlo in questo 25 aprile che questa cosa di Mattarella mi ha colpito. Adesso cambiamo argomento e da il divorzio breve e gli assegni divorzili e le pensioni di divorzibilità andiamo a Expo, torniamo su Expo, perché chi sta ascoltando Radio 24 questa mattina sa che anche nella trasmissione precedente Si può fare abbiamo parlato esattamente di questo e anche noi partiamo da questo articolo che è uscito la settimana sul Corriere della Sera, che è un articolo che ha fatto molto discutere e che ha fatto molto discutere anche perché c'erano scritte delle cose dentro veramente discutibili. Ricordo a tutti, è l'articolo nel quale si diceva che 8 giovani su 10 di quelli chiamati e selezionati per lavorare a Expo avevano rifiutato, ed è partita l'immediata cosa sui bambosci che non c'hanno voglia di fare niente. Il mio primo Twitter, non mi tornavano i conti, era: bah, invece di scandalizzarvi tanto, quando anche fosse così, poi è una cosa che abbiamo creato tutti. Ma il problema era che i conti non tornavano, non tornavano proprio, perché poi sia Manpower, cioè la grande multinazionale a cui ci si affida, no, per l'intermediazione del lavoro, sia Expo, hanno dovuto fare marcia indietro, perché non era affatto 8 giovani su 10 selezionati che non hanno detto no, era il 46% di quelli che sono stati chiamati poi a colloquio una volta selezionati ad aver detto no, e si è scoperto tutta una serie di cose. Primo, che c'erano dei ritardi fortissimi e quindi nel frattempo la gente si era organizzata. Secondo, non c'era chiarezza nelle retribuzioni, altro che 1.300-1.500 euro sicuro per tutti. Il problema era che all'ultimo secondo si capisce che molte spese non sono coperte, che non sono affatto 1.300-1.500 euro. Caduta tragica di tutto questo dibattito sui bamboccioni, compreso un articolo di Aldo Grasso che molto infelice, che aveva molto picchiato molto su questo infelice, argomento. E come sempre bisogna accertare i dati bene prima di capire. Il problema di fondo in cui si iscrive questo è poi il ritardo clamoroso di Expo. Chi ha visto le fotografie pubblicate da oggi, mi ha molto colpito un settimanale come oggi abbia fatto quel servizio fotografico 5 giorni fa, poi sul Fatto Quotidiano oramai tutti i giorni, e io dico grazie ai colleghi del Fatto Quotidiano che le pubblicano, perché diciamolo, gli altri grandi giornali sono pesantemente condizionati dal fatto di avere inserti a pagamento di pubblicità, bisogna spiegarvele queste cose, però il Fatto Quotidiano manda a fare fotografie, ufficiali e non ufficiali, del ritardo dei padiglioni e dei lavori, e bisogna essere molto preoccupati. Perché? Perché anche tutta la polemica sui giovani che non hanno voglia di fare niente derivava dal ritardo. È così o non è così, Carlo Alberto? Sì, il ritardo ha influito anche su questa polemica. Il ritardo, fammi dire anche un pochino di esagerazione, chi ha fatto le specifiche degli skill richiesti per fare Expo forse è un po' esagerato, perché ha voluto laureati con anni di esperienza, 5 lingue, e poi si scopre che il 71% delle persone che sono candidate di fatto o l'inglese non lo sa ex ante o non passa gli esami, e quindi diciamo di quei 156.000, 114.000 di fatto non hanno i requisiti minimi per presentarsi in un'esperienza l'esposizione universale. Certamente c'è stata poca trasparenza nelle condizioni di lavoro e nelle condizioni retributive. Ciò detto, fammi dire, se aspetti l'ultimo momento, se non sei chiaro, se chiedi troppe qualification, è chiaro che i giovani candidati si restringono, gli alzi i costi opportunità, perché magari devono venire da Torino o da Venezia, e ovviamente con quei soldi che il budget mette a disposizione non si pagano il lavoro, no? E se lo scoprono all'ultimo momento, è evidente che poi rinunciano, no? Vi trovate oggi su Repubblica il governo con Poletti che interviene su Expo e su Manpower a tutela di coloro che sono stati maltrattati in questa vicenda. Ecco, qui magari esageriamo. Devo dire che siamo ridicolo adesso, no? Ecco, invece devo precisare due numeri, perché li ho proprio verificati ieri. Dei selezionati, che sono circa 6% del totale, in realtà metà non si è presentato al colloquio proprio per questa ragione, perché c'era stata poca chiarezza all'inizio, e tutto sommato si è arrivati troppo sotto. Nel frattempo la gente probabilmente aveva trovato altre opportunità. Di quelli che si sono presentati, però, la metà effettivamente è rinunciato, quindi siamo circa al 75% di rifiuti, dovuti probabilmente al fatto che c'è stata un eccesso di richiesta di qualifiche, un ritardo nella specificazione e una poca trasparenza sulle condizioni di lavoro. Comunque noi qua abbiamo la testimonianza diretta del presidente di Manpower, Stefano Scabbio, che è stato costretto ad ammettere, lo sentirete, che in effetti si sono ridotti all'ultimo. Sentiamo un secondo. È vero che alla fine i 1000, che dopo un processo estremamente lungo, che è partito l'8 settembre del 2014 e si è chiuso il 24 aprile del 2015, capite, sei mesi circa di processo. Un senza po' a ridosso, però questo dobbiamo dire. Un pochino forse. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio, capite che non è proprio il massimo per poi fare. In realtà di dubbi ce ne sono tanti, su come sta venendo gestita tutta sta baracca, diciamo. Perché non è che poi uno parte all'attacco per coprire i ritardi dicendo contro i giovani italiani. Ecco, questa a me è sembrata veramente infelice, anche perché, ripeto, con tutto il rispetto, lo dico sempre, Giuseppe Sala e la sua squadra di manager privati, senza i quali non sarebbe stato possibile mettere in piedi questa cosa. Ma detto questo, tra i ritardi, le indagini, le procure, gli scandali, insomma, ammettiamolo, non si può dover stare zitti per un senso malinteso di patriottismo, perché chi parla del ritardo e dei padiglioni che sono in condizioni incredibili, guardate le fotografie giorno per giorno, diventa a quel punto un nemico dell'Italia, uno che tifa per il peggio del peggio. Non è così, bisogna essere semplicemente, ricordare che qualcuno ha detto fin dall'inizio che questo Expo era da lasciar fare ad altri. Queste grandi manifestazioni sono per paesi emergenti e non per paesi avanzati che hanno problemi. Però detto questo, non è affatto vero che non si poteva fare diversamente, eh? E soprattutto cerchiamo di non mascherare il ritardo prendendosela con chi non c'entra nulla, cioè in questo caso i giovani senza lavoro, perché, caro Alberto, anche qui scopriamo che 7 giovani su 10 non hanno un inglese fluente, tale eccetera eccetera. Bene, non lo scopriamo grazie a Expo, ma perché purtroppo il sistema della formazione pubblica non consegna questo nel bagagliaio degli studenti italiani a fine loro corso, perché sappiamo che è così. O noi, o ce la vogliamo prendere con loro? No, è giusto prendersi con i ragazzi sicuramente. Qui fammi specificare un'altra cosa importante che ci tengo, perché c'è una selezione Expo, che è quella pubblica, e poi c'è una selezione dei padiglioni fatta per incarico delle centinaia di espositori, che invece è di natura privata. Anche qua c'è stata un po' di confusione fra la natura del contratto, quella, fammi dire, sottoposta a specifiche pubbliche, è stata quella più esigente da un certo punto di vista, e quella che ha avuto i tassi di caduta più alti. E certamente, insomma, non facciamo una bella figura come sistema paese, arrivare così a ridosso di una manifestazione importante con un'offerta di lavoro inadeguata. E questo è, secondo me, un dettaglio che pone un pochino l'accusa su tutto il sistema scolastico ed educativo del paese, non certo solo sugli operatori di questo specifico processo. Un minuto di pausa e poi torniamo proprio con uno studente del Politecnico di Milano che è tra quelli che si è trovato a capire e a dire: ma di che cosa stiamo parlando? Tra un minuto. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamcia corde, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornate in diretta ai compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Oscar. Ed è con noi, collegato telefonicamente, stiamo parlando dei ritardi di Expo, sperando che non siano eccessivi, ma ce ne saranno e saranno tanti. L'annuncio è che si continuerà a lavorare ogni notte al termine dell'apertura per finire i lavori. Speriamo che finiscano prima che finisca l'Expo. E comunque le fotografie, ripeto, scattate in questi giorni, testimoniano uno stato, io dico spaventevole, francamente, tifando per Giuseppe Sala, io dico spaventevole. E stiamo parlando di questa polemica, questa settimana, con cui si è tentato, questa è la mia interpretazione, di mettere un po' di fumo intorno al ritardo con cui si arrivava anche alle qualifiche, alle selezioni di chi doveva lavorarci, e c'era sempre presa con i giovani che dicevano di no. Vi abbiamo spiegato un pochino i dati veri dietro quell'articolo del Corriere della Sera, ed è con noi Marco Mazzocchi, che è uno studente del Politecnico di Milano, che appunto ha partecipato alla selezione per Expo e che ci ha scritto perché dice: no, voglio testimoniare qual è stato il mio caso e di fronte a che cosa mi sono trovato di fronte. Buon 25 aprile e grazie di essere collegato con noi, Marco. Grazie a voi, buon 25 aprile. Allora, tu quando è che hai fatto domanda, in presenza di che cosa ti sei mosso e quando hai capito che cosa c'era davvero di fronte all'offerta? Allora, io a giugno mi sono registrato sul portale Manpower per appunto caricare il mio curriculum e compilare dei questionari. A giugno 2014. Giugno 2014. Le selezioni, come cioè la fase di candidatura vera e propria, come ha ricordato prima Giuseppe Sala, sono partite l'8 settembre. L'8 settembre quindi ho inviato la mia candidatura per due diverse posizioni. La prima è quella di operatore grandi eventi, che, spiegato in maniera più semplice, era colui che doveva essere, diciamo, gli occhi e le orecchie dei leader, e doveva essere colui che appunto doveva risolvere di qualsiasi problematica che poteva capitare all'interno dei padiglioni. Sì. E poi inoltre mi sono candidato anche per il ruolo di team leader, cioè colui appunto al quale dovevano essere riferiti tutti i problemi e che aveva il compito di risolverli. Sì. E in sede di candidatura ho dovuto compilare per ogni posizione due questionari di routine, il livello di inglese, la conoscenza dell'inglese, alcune domande semplici di grammatica italiana, e poi mi è stato detto che mi sarei stato ricontattato. E sono stato ricontattato per appunto fare una giornata di colloqui, e questa giornata si è tenuta il 15 ottobre, sono andato a rivedere le varie mail che mi hanno mandato dal 15 ottobre. E in questa giornata siamo io assieme ad altri ragazzi, siamo andati alla sede di Manpower, e in primo luogo ci hanno fatto vedere diversi video, circa un quarto di video, dove si spiegava un po' cosa sarebbe stato Expo e quali sarebbero stati i nostri compiti. E subito dopo ci hanno fatto una serie di test finali molto semplici, niente di complicato, però ci hanno posto in delle situazioni che secondo loro erano di stress o comunque di difficoltà, e volevano vedere come le avremmo risolte. E subito dopo siamo passati alla vera e propria fase di colloquio. Alla fase di colloquio dove mi sono state fatte domande, esperienze precedenti, esperienze lavorative in qualsiasi campo. Ok, e quindi eravamo a ottobre ancora? Sì, il 15 ottobre eravamo. Dopodiché? Durante il colloquio mi sono state dette diverse cose, e appunto per testimoniare anche la poca chiarezza della cosa, durante il colloquio non è mai stato nominato un compenso, non è mai stato nominato. Sono stato io alla fine del colloquio a doverglielo chiedere. E la risposta è stata? La risposta è stata, mi hanno fatto diciamo un giro di parole di 10 minuti, alla fine sono arrivato alle cifre, che erano 22.000 euro lordi l'anno. 22.000 euro lordi l'anno, che naturalmente vanno abbattuti del fatto che però lì è per 6 mesi. Esatto. Quindi erano 11.000 euro lordi. Esatto. Poi alla fine diciamo andiamo sui 6.000 netti all'incirca. Ok. Tolte tassazioni varie. Sì. E la cosa strana che mi è stata, quindi parliamo di circa 950 euro al mese. Perfetto. Quindi non i 1.300-1.500, esatto, di cui parlava il Corriere della Sera. Okay. La cosa strana inoltre che mi è stata detta è che parte di questo stipendio mi sarebbe stata erogata in buoni pasto. Ah. Buoni pasto da appunto utilizzare per mangiare tra un turno e l'altro, diciamo. Mm. E già questa cosa quindi abbassa, diciamo, la cifra di stipendio. Sì, quindi, perché il lavoro era costituito da 40 ore settimanali in turni da 8 ore su 5 giorni alla settimana, quindi parliamo di mettiamo mediamente un pasto al giorno, 7 euro di media, possiamo dire un pasto, 7 euro di media, quindi andiamo a 7 euro di media per 5 giorni alla settimana, quindi lo stipendio si sarebbe ridotto non di poco, ma di un bel po'. E inoltre, sua espressa domanda, perché io ho chiesto se avevano qualche convenzione con i mezzi pubblici per farmi arrivare. Per capire chi sosteneva i costi per andare tutti i giorni, esatto, là, se in qualche modo eri aiutato o erano a tuo carico. Esatto, perché io abito vicino, però non... Erano a tuo carico? Erano a mio carico, esatto. Perfetto. Quindi, ecco, adesso voglio dirvi, ascoltando l'esperienza di non uno sfaccendato che non ci vuole lavorare, ma uno studente del Politecnico che si è fatto io un anno fa, a me colpisce, questa è la realtà, ecco, di fronte al quale si è trovato. E dopodiché, dopo quell'appuntamento d'ottobre in cui hai appreso di queste cifre e di questo trattamento, lo sviluppo qual è stato del tuo caso, Marco? Allora, nel mio caso io 2 giorni dopo ci ho riflettuto bene alla mia candidatura, al fatto che io avevo cominciato l'università da poco, ci ho riflettuto 2 giorni dopo io ho inviato una mail ritirando ufficialmente la mia candidatura. Ok. E perché appunto innanzitutto perché io cercavo più altro un'opportunità. Per carità. Però non mi pare che Marco rientri nella categoria di quelli che non c'hanno voglia di fare. Si tratta semplicemente di fare un'analisi delle condizioni per incrociare la domanda offerta. Marco, hai anche altri amici o colleghi che sono trovati in condizioni simili e poi sono andati avanti oppure che hanno rinunciato? Purtroppo no, però posso raccontarvi questo fatto che mi ha colpito molto. Quando io sono andato a quella giornata che vi ho parlato del 15 ottobre, eravamo in varie persone. Io ho 19 anni, a 18 all'epoca, però cioè, diciamo ero lì sì. Non perché la mia stessa necessità era quella di un lavoro. Cioè io comunque ero già iscritto all'università, quindi non ero non richiedevo urgentemente un lavoro, mentre lì ho trovato ragazzi che andavano dai 23 ai 30 anni addirittura, comunque con alcuni con lauree triennali nelle materie più disparate, che comunque si ritrovavano lì per necessità, e questo mi ha colpito molto, ecco, perché perché più che altro ritrovarsi in questa posizione, nella posizione di essere dopo delle lauree e andare a richiedere un lavoro a quelle condizioni mi ha colpito molto. Ecco, questo però ti ha colpito, ma questo è un altro dato della realtà italiana che non apprendiamo in questa vicenda. Noi purtroppo, Marco, siamo in queste condizioni. Dall'altra parte, come diceva Carlo Alberto prima, anche la richiesta è una richiesta che oramai parte overskilled, cioè si chiedono titoli di laurea eccetera eccetera per condizioni ordinarie che ovviamente non dovrebbero richiederle, o non è intuitivo che lo giustifichino, per così dire. Poi si tassano questi stipendi lordi già discutibilmente bassi con cifre spaventose, perché se il 50% del lordo di questi ragazzi poi deve finire allo Stato, è chiaro che non andiamo molto lontano, Oscar, non andiamo molto lontano. No, ma questo per dire, io ringrazio Marco che si è reso disponibile a spiegare perché ha rinunciato lui, però infatti non mi meraviglia che gli sms che arrivano siano affatto bene a rinunciare, ma non perché ci sia una predisposizione a essere fannulloni o pelandroni. Allora, io continuo a pensare che sia stato un incidente, però è un incidente su una... pesantissimo, evidente ritardo di Expo, e purtroppo aggiunge un allarme all'allarme. Trovare poi il governo che in 24 ore si mette a fare il paladino dei giovani, scoprendo oggi quello che viene a Expo, è una cosa che mi affido a quello che ha già detto Mario. Non è possibile, cioè, capite che c'è un limite oltre il quale il governo non può fare la parte dell'estraneo che oggi scopre queste cose su Expo. E l'ho detto fuori onda, però, perché no, quello che ho detto non si poteva dire. Ma non in onda, si può dire, hai ragione, diamoci un limite, però è anche vero che insomma. Perché ci siamo messi in questa condizione? La metto così, che di fronte a Expo chi ha avvisato prima che era meglio di no e che ha fatto obiezioni critiche ma senza mai dire eccetera eccetera è stato brutalmente tacitato, quando oggi forse a dare retta un pochino di più a chi aveva sollevato delle obiezioni non saremmo in questa condizione in cui bisogna affidarsi veramente a delle potenze numeriche, alla Madonna e a San Gennaro, per evitare di vedere il primo maggio una cerimonia di fronte a dei cartelloni che coprono delle cose non finite. E questo che cosa dirà? Dirà al mondo che siamo questa roba qui. Chi verrà dagli altri paesi, negli altri padiglioni, sapete che i padiglioni a carico degli altri paesi sono finiti prima di quelli in media all'interno del recinto dell'Expo, di quelli che sono stati affidati a opere italiane. Qualche cosa vorrà dire del fatto che nello stesso contesto e con le stesse regole i padiglioni realizzati dagli altri paesi sono finiti e nello stesso recinto quelli invece realizzati da imprese italiane no? Sì che vuol dire, vuol dire come, e vuol dire che purtroppo non possiamo dire, come dice Renzi, siamo i più fichi del mondo. Non è vero, perché persino nel contesto di paesi italiani chi viene da fuori fa le cose le finisce e noi invece no. Io non so cosa dire, non voglio parlare male di nessuno, però l'affronto che abbiamo fatto ulteriore ai giovani questa settimana era una cosa che ci potevamo francamente risparmiare. Ci ho detto, ricordiamo che ci sono ancora 700-800 sì, posizioni disponibili, e che quindi cerchiamo di buttarla su positivo. Positivo. Vorrei almeno tamponare le falle che ci sono ancora. E fammi dire un'altra cosa, è chiaro che questo è un bello spaccato sul mercato del lavoro di questo paese. C'è metà della popolazione che si è indignata per questa storia ovviamente infondata, no, dei cosiddetti fannulloni, però posso dire che è un segnale preoccupante del fatto che c'è un risentimento, c'è in fondo qualcosa di amaro che ci sta dicendo c'è un meccanismo che non funziona nell'incontro fra domande e offerta di lavoro, no? C'è uno Stato che non favorisce, con una tassazione assurda, ci sono richieste non sempre in linea con l'offerta di lavoro e di skill, quindi abbiamo veramente importanti problemi. Invece di stare a contare i posti di lavoro in più o in meno, ci dovremmo veramente domandare, ma abbiamo un sistema di domande e offerta nel mercato del lavoro che funziona in questo paese? Mi sembra che questo piccolo esperimento dell'Expo ci abbia detto di no. Ecco. Anche perché, primo, chi ha già accettato all'Expo e si vede oggi su Repubblica Milano il governo dire ma questi contratti sono indegni, si sente due volte preso per i fondelli quelli che hanno già accettato. Primo. Secondo, ricordatevi che i promessi decreti attuativi del Jobs Act sulle politiche attive sono quelli di cui si è perso ogni traccia nel radar, e noi stiamo parlando esattamente di questo, perché senza politiche attive del lavoro, cioè come si incrocia domanda e offerta rispetto ai vecchi uffici provinciali del lavoro, le cose restano così, cioè restano totalmente inadeguate. Fine del capitoletto sull'Expo, ci sentiamo tra un minuto e passiamo alle banche. Le banche vi hanno avvisato che ve la prendete nel fondo schiena, ma non dico altro, tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia alle vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci qui, tornati in diretta ai Conti della Belva, i compari Carlo Alberto, Mario e Oscar. Prima di andare al punto delle banche, perché entrano in vigore anche in Italia le norme della compartecipazione alle perdite delle banche, ma questo adesso ci arriviamo 30 secondi. Abbiamo Giovanni ancora da Cosenza, che aveva partecipato anche lui alle selezioni per Expo, è così Giovanni? Sì, salve, buongiorno. Sì, sì. Io intanto la ringrazio per avermi dato l'occasione, perché in questi giorni sono in contatto continuo con tanti altri ragazzi come me che sì, hanno svolto le selezioni, questo tramite gruppi su WhatsApp, mail che ci inviamo, eccetera. Ma lei poi era stato convocato e ha rifiutato? Com'è andata? Allora, io cerco di sintetizzare al massimo. Sì. Allora, ho fatto un primo colloquio, ed eravamo un gruppo, varie persone, a distanza di un po' di giorni, ma le parlo di almeno una ventina di giorni, mi arriva una chiamata da Manpower in cui mi viene comunicato che il primo colloquio è andato bene e che quindi mi convocavano a Milano per un corso di due giorni. Sì. tenga presente che io, come tantissimi altri, mi muovevo dalla Calabria, sì, quindi significa ogni volta prendere un aereo, affrontare. Abbiamo fatto questo corso? Fatto il corso di 2 giorni, un corso praticamente mi è stato conferito un attestato HACCP, quindi sulla somministrazione di bevande. Tenga presente che, e questo appunto per dire la questione bamboccioni, come me c'erano ragazzi laureati con master che parlavano 3-4 lingue, lì pronti ad accettare anche posizioni come steward, eccetera eccetera, che, ripeto, cioè pronti ad accettare perché nell'ottica di vivere un'esperienza importante come l'Expo dal di dentro, no? Sì. Questo un pochino era il concetto. E quindi niente, abbiamo fatto questo corso, sicurezza sul lavoro, molto utile, ma comunque molto così generale, insomma. Al termine del quale? Al termine del quale passano altri tanti giorni. Tenga presente che tra uno step e l'altro, la grande difficoltà che si è avuto, il cortocircuito forte che c'è stato con Manpower, è stata proprio l'assenza di la possibilità di comunicazione con Manpower, sia via mail sia... E ma intanto il tempo incalzava, e quindi è chiaro che non comunicava con tutto. Può immaginare che a me come è finita? È finita che intanto, cioè, c'era stato detto dal primo colloquio che il lavoro sarebbe iniziato il 15 di aprile per fare 2 settimane di formazione e invece? Poi prendere... E invece adesso la cosa che è successo è che pochi giorni fa, le parlo di 5-6 giorni fa, mi arriva una telefonata e mi viene richiesto di fare un video colloquio in chat, una video chat colloquio, si parla di un padiglione in particolare, faccio questo colloquio, penso che vada molto bene, addirittura e poi niente, mi viene proposto un part time di 4° livello. 2 giorni dopo io ricevo un'altra telefonata e come se non avessi fatto nulla, quindi posso le far capire il cortocircuito, mi viene proposto un altro lavoro, un full time da 1.100 euro lordi di 6° livello, praticamente per svolgere una mansione. Ma questo in questi ultimissimi giorni, quindi questo testimonia che loro stessi di Manpower hanno, non riescono a matchare ancora bene a polemica già scoppia. Alla fine lei cosa farà? Ha dato una risposta? Io non lo so. Nel frattempo però vi comunichiamo che tra poche ore oramai Expo comincia, quindi non so, poi troverete il modo con Manpower di capire, però ecco, grazie anche a Giovanni di averci raccontato questa storia, perché dà l'idea a chi è in ascolto di come stanno davvero le cose. Allora, banche. Carlo Alberto, questa settimana il governatore della Banca d'Italia ricorda una cosa fenomenale, cioè che sarà richiesto, testuali parole nell'audizione al Senato, un sacrificio significativo da parte dei clienti per salvare una banca, e viene meno, testuali parole, la certezza del mantenimento del valore del capitale investito fino ad ora radicata nella consapevolezza dell'investitore. Sostanzialmente Visco sta dicendo: cari italiani, se avete coltivato l'illusione per 70 anni che la banca e tutti i suoi patrimoni fossero garantiti dallo Stato, scordatevela, perché guardate che se avete scelto una banca in difficoltà e destinata al bail-in, pagate voi nell'ordine da azionisti, obbligazionisti e se necessario anche i correntisti. E finalmente il muro di omertà cade e questa cosa viene ufficialmente detta, dando alle banche un carico importante, cioè educare la clientela, spiegarlo, perché questa consapevolezza assolutamente non c'è nel paese. Io me li vedo. Che educano la clientela e spiegano un concetto del genere. Me li vedo. No, tu non fare questa battuta troppo ironica. Okay. Ironica la battuta di Mario. Noi come Radio 24 credo che faremo una campagna. Io la farò tutti i giorni chiedendo agli ascoltatori di segnalarci se la vostra banca vi sta informando del fatto che entrano formalmente in vigore anche in Italia le regole del salvataggio, del cosiddetto bail-in, cioè della compartecipazione dei privati correntisti sopra i 100.000, e qui ci sarebbe da fare una riflessione su se basta il fondo poi di garanzia su quello che ha accantonato, perché se uno va a vedere i conti si fa venire un pochino di dubbi, e poi con gli obbligazionisti, se vi informano o meno fatecelo sapere, però c'è un obbligo, la clientela va resa pienamente consapevole, c'è scritto così. Allora chiediamo ai nostri due ospiti cosa ne pensano, se intanto secondo loro le banche stanno informando. Ecco, sarai collegato con noi dagli Stati Uniti, me, quindi c'è un problema anche di fuso. Vincenzo Imperatore, che è caduto, è bastato dirlo che è caduto. Vincenzo Imperatore è un ex manager bancario che ha scritto per Chiare Lettere l'anno scorso autunno un libro, il libro Io so e ho le prove, che è, in cui si è levato molti denti avvelenati nei confronti di come le banche per cui ha lavorato trattavano i clienti. È tornato con noi Vincenzo Imperatore. Secondo te, Vincenzo, intanto grazie di essere in piedi a quest'ora dall'altra parte dell'oceano, le banche stanno davvero avvisando i clienti di quello che ha detto il governatore della Banca d'Italia oppure no? Allora, il problema non è il bailout, penso che il bailout è anche tuttora, perché nel nostro paese c'è una banca che ha consigliato 10 miliardi di euro in 3 anni. Aspetta Vincenzo, proviamo a richiamarti, perché così chi è in ascolto non sente una sola parola, perché rimbomba troppo. Quindi nel frattempo che richiamiamo Vincenzo Imperatore, rifaccio la stessa domanda a Andrea Boda. Andrea Boda è redattore del sito Piano Inclinato, consulente finanziario. Buon 25 aprile ad Andrea. Andrea, secondo te le banche italiane come si comporteranno di fronte alle nuove norme sulla compartecipazione dei privati al rischio? Buongiorno a tutti, credo che diciamo la comunicazione continuerà sull'alveo che è stato seguito fino ad ora, quindi sarà diciamo più su iniziativa dell'utente che non da parte della banca, insomma. Quindi le banche secondo te non cambieranno praticamente nulla? Cioè, diciamo... Ma, insomma, no, non credo che, come dire, a meno che vengano adeguatamente pungolate, vanno pungolate, molto... vanno pungolate, sì, questo è il punto. Quindi ci dobbiamo pensare noi, cari ragazzi, Carlo Alberto. No, però non si configura. Dire... Ma ci saranno le perdite tecniche. Però ti faccio una domandina, caro Alberto. Anche i signori accademici in cattedra dovrebbero essere un pochino più pungolatori. No, non te la prendere con me, perché no, io sono anni che cerco di spiegare. Sì, comunque hai ragione, c'è stata un po' di collusione, sai, queste belle cooptazioni in consiglio di amministrazione aiutano a tacitare, no? Però devo chiedere ad Andrea, scusa, ma non si configura una violazione di una chiara indicazione del governatore di Banca d'Italia rispetto a un mandato di trasparenza e di consapevolezza? Ah, che chiedo, paura, ti li chiedo. Vedo gli amministratori delegati che tremano. Allora, io credo che se vogliamo parlare di consapevolezza, c'è una notizia, voglio dire, un'informazione che è notizia da sempre, ma non viene mai detta, no? Cioè, se io ho un banale conto corrente, a seconda che il conto corrente sia in rosso o in nero, io ho un saldo creditore o debitore. Questo significa molto semplicemente che quando io verso dei soldi su un conto corrente, quei soldi non sono più i miei, io li sto prestando alla banca che ne diventa proprietaria. Infatti io non ho nessun diritto di reclamare di vederli, come si racconta in qualche barzelletta, i soldi che ho sul conto corrente, perché io li ho prestati alla banca, la quale si impegna con una obbligazione che io posso discutere anche dopo un minuto, chiaramente, finché sono saldi di conto corrente, ma comunque la banca è debitrice verso di me e io sono creditore con il conto corrente, stiamo parlando, non di obbligazioni, certo, titoli, certo, o che cosa. Quindi questo, voglio dire, non è una novità che arriva oggi, è da sempre che è così. È sempre sì, però appunto Visco dice, guardate che negli investitori, nei clienti c'è una radicata consapevolezza erronea di essere ancora titolari, proprietari di quel capitale, invece non lo sono, più risparmiatori, appunto, no, quello che sto dicendo è che questa informazione, che è vecchia di secoli, comunque ancora non c'è, quindi non capisco per quale ragione dovremmo aspettarci che da oggi... la prima cosa che viene detta, ma anche da un punto di vista commerciale, io ve lo capisco questo, la prima cosa che viene detta ad un cliente quando versa dei soldi sul conto corrente è grazie ad averci prestato quello che ci stai prestando a tasso, peraltro. Comunque, grazie al cielo, in questo ultimo anno e mezzo la quota di obbligazioni sul totale degli impieghi di portafoglio delle famiglie italiane di obbligazioni bancarie è iniziato a scendere, visto che era quella record. Un po' perché le banche le convertono forzosamente, esatto, in azioni senza dir nulla, e poi magari tagliano il prezzo unilateralmente sempre delle stesse azioni, dicendo che però ancora oggi valgono 1,2 volte il price book, quando la media delle altre banche paragonabili è tra 0,4 e 0,6. Stiamo sempre parlando di Veneto Banca, è un dato tecnico. Viva la tecnica. No, perché poi i professori, come vedete, sono molto espliciti, però non dicono mai il nome della banca di cui stanno parlando. Dice il peccato, peccato è anche il peccatore. Devo dire, ragazzi, che io anche quando ho letto le dichiarazioni della persona che io stimavo e stimo ancora, ma non tanto però per quello che dice come presidente della fondazione MPS, cioè Marcello Clarici, sul fatto che MPS una fusione solo e se creerà valore. Certo, certo. Ecco, allora, beh, cioè, sono c'è un tweet dell'amico Fabio Bolognini che dice: ma potranno ancora chiamare un conto vincolato conto deposito sicuro anche se la banca è commissariata? Io mi auguro anche che queste denominazioni sicuro nel senso che c'è la pubblica sicurezza, cioè che sono sottoposti a dei vincoli gli ex amministratori da questo punto di vista. Allora continuate però a segnalarci, io in settimana continuerò su questo a chiedervi se le banche vi informano. Grazie Andrea Boda, e a questo punto convocherò Vincenzo Imperatore per una delle trasmissioni che continueremo a fare su questo, perché ohimè il collegamento con l'America non ha consentito di farlo ascoltare. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta 11:48, primi 48 secondi in questo 25 aprile con i compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. E si è aggiunto anche Renato Cifarelli, che adesso ci divertirà, amaramente ci divertirà con la consueta rubrica Non si può fare. Buongiorno e buon 25 aprile a te Renato. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Finalmente un collegamento telefonico che non sembra venire dal Myanmar, perché guardate lo stato delle nostre infrastrutture. Tra l'altro, appello tecnico ma facciamo le telefonate in Skype? Facciamo le telefonate in Skype. Perché tanto almeno proviamo a avere uno standard. Guarda che la connessione di Radio 24 mi sa che è una cosa tipo un megabit. Ho capito, abbiamo lanciato l'appello, vediamo se migliora. Allora, Rato, tu stai là, che intanto abbiamo un'ultima telefonata ancora, sempre sulla vicenda di Expo. Umberto dalla provincia di Lucca ci ha chiamato. Umberto? Sì, pronto, eccomi. Eccoci qua. Dunque, io brevissimamente sono stato nel 2005 commissario generale del governo italiano all'Expo di Aichi, un'Expo simile a quella di Milano. Sì. Il padiglione italiano ha finito 15 giorni prima dell'inaugurazione, siamo stati il secondo. I visitatori del padiglione sono stati 3.600.000+ visitatori. Avevamo portato il satiro danzante da Mazara del Vallo, un bronzo delicatissimo, più delicato di quello dei, che dovrebbe venire, doveva venire da Reggio Calabria. E che non è venuto. Non è venuto. Il discorso è semplicissimo. Avevo chiesto di partecipare a delle riunioni, di dare un parere per quello che è stato fatto, il precedente. Sì. Nessuno si è degnato di chiamare. Ah, nessuno si è degnato di chiamare? Oh. No, no, nessuno. Beh, guarda, sono, io la ringrazio proprio perché da ex commissario... Le dico solo questo, sì. Sono andato 4 volte a Milano, segnalato da persone che avevano conosciuto quello che avevamo fatto... Mi hanno accolto così brevissimamente, mi hanno rinviato a incontri che si sarebbero fatti e non è mai successo nulla. Umberto, e io la ringrazio e la ringrazio anche per quello che avete fatto a quell'Expo, cioè in Giappone dove l'Italia fece un'ottima figura. E, riflettete voi che siete in ascolto, se a chi ha avuto la responsabilità di cose fatte bene dall'Italia in Expo Universale altrove, non era il caso di ascoltarlo. Non è per l'amarezza personale di Umberto, è semplicemente che è la prova di qualche cosa che non si fa come andava fatta. Grazie Umberto. Allora Renato, questa settimana con che cosa ci fai amaramente divertire su un altro bello esempio di come con la storia degli imbullonati. Oh, gli imbullonati. Sta facendo impazzire gli imprenditori. Io sono un metalmeccanico e parliamo di imbullonati, ma di impianti, non di persone imbullonate. Perché si chiamano imbullonate proprio perché sono appunto imbullonate sull'impiantito di un capannone. Sì, tendenzialmente se tu non vuoi che una macchina utensile se ne vada in giro per il capannone, la devi fermare. Più o meno come fai tu con le tue Harley, cioè le imbulloni al terreno per evitare che cadano, diciamo. Sì. Quelle sono già imbullonate da sole per il fatto di essere Harley. E il problema è che queste... No, questa cosa qua, quello che mi fa arrabbiare e fa arrabbiare gli imprenditori, è che è la cosa classica che l'Agenzia delle Entrate ha fatto inserire al governo. E poi il governo ha detto, ma va? Davvero? Ma non ce ne eravamo accorti. Perché si tratta di far pagare anche a questi mezzi strumentali, siccome sono avvitati sul pavimento, la tassa del pavimento. Questo è il punto. No, perché lì il problema è questo. Tutto era partito dagli impianti fotovoltaici. Sì. Perché per farti pagare l'IMU sull'impianto fotovoltaico, quindi anche sul tetto, oltre che sul suolo del capannone, avevano introdotto questa cosa qua. Poi, siccome c'era, come al solito, un sacco di contenzioso, hanno messo dentro la normativa. Solo che poi, quando tu inserisci la normativa, c'è sempre qualcuno dell'Agenzia delle Entrate, di qualche paesino, che dice, ah no, beh, allora, imbullonati, certo. Qualsiasi cosa è imbullonata, va accatastata. E certo, quindi ci allarghiamo sempre di più e facciamo felice lo Stato. Quindi, tu immaginati, una cosa che è accatastata, poi mi piacerebbe anche capire con che regole, esatto. Tendenzialmente ogni volta che la cambi, quindi anche se fai manutenzione sulla macchina, dovresti chiedere la DIA. Certo. Allora, siccome già gestire un'azienda, vi assicuro, non è che sia proprio una passeggiata e una cosa poco complicata, a questo punto capisco che c'è la disoccupazione, ma non possono farci assumere anche un geometra per poter avere gli accatastamenti di ogni cosa, di ogni singola macchina. Non sei un metalmeccanico, fai l'urbanista. Ogni volta che sposti un trapano o un tornio, fai urbanistica. Cari ascoltatori, tenete conto che il governo X volte ha promesso sugli imbullonati di risolvere questa storia per cui una macchina in un capannone è da accatastare e paga l'IMU. Naturalmente niente da fare. Per forza, un governo di svitati non capisce gli imbullonati, secondo me. Vabbè, no, la realtà è che oggi poche bastano, quella che con Capitan Gana la crescita resta bassa. Questa resta il motto della giornata. E quindi, caro Renato, visto che il tempo finisce, naturalmente paghiamo un sacco di tasse. Pagate, perché esatto, la bestia ha fame. Perché la bestia questo ha fame. Questa è la verità. Hai provato con la rivettatura, Renato? Cioè, magari se cambiamo modalità. No, ma adesso noi ci scherziamo, ma il più grosso problema è che nel momento in cui tu lo accatasti, viene dietro una serie di cose, esatto. Al di là delle tasse, esatto. Che è da neurodelirio, che è al di là del bene e del male. Cari componenti del governo, e soprattutto sostenitori ed elettori in ascolto, è l'ennesima promessa non mantenuta, è colpa nostra che siamo gufi, non crediamo proprio, questo è lo spirito dei conti della Belva, falvi sorridere e dire 25 aprile continuate con la 24 e nel frattempo attenti al fondo schiena, perché c'è sempre qualche cosa che entra non appena vi distraete. il bullone pesante. Ciao a tutti, buon 25 aprile. Fratelli d'Italia, l'Italia le